quier morir no fue con de la terre sauvage ni voi venir retourner ou si rassonegi mi mauscant gi oi parli da canti che amore si reti sopra i lume perché si s'espante perché non si thank you.

Femmina sordida, femmina perfida, femmina fracta, munda coinquina, timpia, rumina, tatteri tacta, ad scerusat bona fitma la femmina calcara bena, est fera femmina sun sua crimina sicut arena. Non è o carpere quas benedicere debeo iustas, sed qui a tebeo carmine morde o mente locustas. Nunc mala femmina fit mihi pagina, fit mihi sermo, se satis approbo sexua reprobo perse quarergo. Se mai ne capita. Femina lutibus artibus actibus impia suadet, cogere crimina totaque femina, vivere gaudet, nulla qui ben bona sita menet bona contigitulla, est mala res bona namque fere bona femina nulla. Femina ressere, res male carnea, bel carotota, strenua proda renata que fallare, fallare docta. Fossa novissima, vipera pessima, pulcra putredo, bella putredine, semita lubrica res male pubblica, preda que predo, pubblico malato, orrida noctua, pubblica janua, dulce veneno, nil bene conscia mobili simpia, vas lue plenum, vas minus utile, plus violabile, flagiziosum, impia, insaziabile, dissociabile, litigioso, mers leve vendita, seccito perdita, serva metalli, flemma domestica, diligi tunica, fallere falli, causa di extat amantibus hostis, hostibus extat amica, nippeti turpeti ditque lucrime tituzzit iniqua, flemma domestica, sun sua gaudia, sun sua propria, lux sua nocte, ed è amica dei nemici. Ec nihil excipit, non ex patre concipit, ex qui nipote, l'efferatezza, fossa libidinis, queste cose, arma voraginis, os viziorum, ec fuit esteritet peream, peritordo bonorum, nulla essa esclude, femina perfida, femina fetida, femina fetor, dal nipote, est satanetro, nus hoc pudoresto, nus hoc fugelector, libidine, strumento degli abissi, bocca dei vizi. Così essa fu, e sarà, e a causa sua andrà distrutta la schiera dei buoni. Femmina perfida, femmina disgustosa, femmina oscena. Essa è il trono di Satana. Per lei il pudore è un peso. Fuggila, o lettore. So folgendan, wir wurden floreben, dobris mich die Verleten, omnibus placebum. Oie, oie, male di canturtilie, iux sapiam posite, male di canturtilie, iux sapiam posite. Ia voltis an divisen man, flores adunare, do voldi mich ein ungeton, ich bitte florare. Oie, oie, male di canturtilie, iux sapiam posite, male di canturtilie, iux sapiam posite. Non mi pizzo vizem hont, sed non indecente, erbis mich di uviselant, valde fraudolente. Oie, oie, male di canturtilie, iux sapiam posite, male di canturtilie, iux sapiam posite. Ergreif mi razin, itz quant, valde indecenter, per forte mir pide hand, multum violenter. Oie, oie, male di canturtilie, iux sapiam posite, male di canturtilie, iux sapiam posite. Er sprac, vrome che avia pats, nevus est remotum, revec de aha, habehans Plansi et octotum Aie, aie Maledicam turtilie Ium sapi apposite Maledicam turtilie Ium sapi apposite Istatem linte folgentan Non procula via Da ab ich meine Helfenlam Timpanum cum lira Aie, Maledicam turtilie, io sapia posite Doher sudia linden com, dixit sedeamus Dium in et vanzaden man, ludum faciamus Aie, aie, maledicam turtilie, io sapia posite Maledicam turtilie, io sapia posite Ergreif mir an den Witzen hin, non obscure timore. Er sprach, ich mache dich ein Weib, dulcis ascumore. Aie, aie, maledicam turtilie, ium sapi apposite, maledicam turtilie, ium sapi apposite. Warf mir auf das Hemden hin, Corpore detecta, errante mir in das Purgenli, cuspide erecta. Aie, aie, maledicam turtilie, ium sapi apposite, maledicam turtilie, ium sapi apposite. Ernam den cocherun den vogen, bene venabatur, Ludus compleatur. Aie, aie, maledicam turtilie, ium sapi apposite, maledicam turtilie, ium sapi apposite, maledicam turtilie, ium sapi apposite, maledicam turtilie, ium sapi apposite. Quasi disperavamo nella trepida attesa dell'amica sul ciglio della via, quando ecco un tintinnio di monili e bracciali, quasi a dire è la luna sul ciglio della via. Lamentati, fanciullo, quanto sai. È il poco che puoi dir, dillo col pianto. Ella è morta stamane, era una foglia, se ne volò leggera giù dal ramo. Si scintilla di lagrima il suo lutto. Nuovo dolore in me, dolore antico, arde nuova in eterno ogni candela, arde con me col folle ogni dolore, ma soffrir quant'un altro non è requie. Pur se di questa morte a noi ragione non renderanno, il velo della quiete turbolenti all'eterno strapperemo. Piove ovunque, e il diluvio anche te strappa alla casa, e l'arciere non è stanco, implacabile torna al suo bersaglio. Sono frecce per tutti, per il rimorso di chi ha fatto del male a questo folle, e per il canto triste che ne narra, si ribolle di vita, e sono turni per ognuno di sonno, e il caso solo ci disloca nel tempo a suo piacere. Un nemico, compagno di sventura, o combattente in armi per tuo amore, come una freccia fu che lascia l'arco quel giorno che da lei si separò. Dei vuoti spazi fece sua dimora, desolati di vita al pianto accesi,

Chi è questa che ven cognom la mira, che fa tremar di chiaritate l'are, e mena seco amor si che parlare, null'omo pote, ma ciascun sospira. O Deo che sembra quando gli occhi gira, dica l'amor chi non savria contare. Cotanto d'umiltà, donna, mi pare, con gl'altra verdi la illa chi ammira. Non si poria contar la sua piagenza, ch'alle s'inchino ogni gentil vertute, e la beltate per sua dea la mostra. Non fussi alta già la mente nostra, e non si pose in noi tanta salute, che propriamente n'aviam conoscenza. Thank you. E registra in MP3? Diciamo che dentro lui... Ti farei rivedere tutti i cani